macerie sotto i mortai. Come l'acciaio resiste la città. Strade di Stalingrado di sangue siete lastricate. Vive una donna di granito su mille barricate. Sulla sua strada gelata, la croce uncinata lo sa, d'ora in poi troverà Stalingrado in ogni città. L'orchestra fa ballare gli ufficiali. Caffè, l'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa. Sette operai, sette bicchieri che brindano a Lenin, e Stalingrado arriva nella cascina e nel fienile. Vola un berretto, un uomo ride, prepara il suo fucile. E sulla sua strada gelata, la croce uncinata lo sa, d'ora in poi troverà Stalingrado in ogni città. Volevamo ringraziare l'Istituto Ernesto De Martino e salutare Ivan.